Innanzitutto volevo ringraziarvi per questa opportunità. Io parlo qui non in veste di docente, ma mi occupo di questi temi nella realtà mia territoriale, che è quella essenzialmente di Milano, anche se ormai la realtà milanese e quella pavese sono sempre più accomunate dalle stesse questioni, dalle stesse contraddizioni. Ma mi occupo dei temi della precarietà del mondo del lavoro da parecchio tempo. Insieme ai vari collettivi milanesi abbiamo fatto la May Day come primo maggio precario a partire dal 2001 e tutta una serie di iniziative riguardo ai vari collettivi che ruotano nell'ambito dei centri sociali e dell'auto-organizzazione della Lombardia o dell'area, della grande area metropolitana milanese che va dal Canton Ticino a Pavia o da Novara a Bergamo essenzialmente. Adesso poi si estende, grazie alla TAV, si estenderà anche a Torino e speriamo che si blocchi all'inizio la Val di Susa poi. Allora, il tema, allora, tutte le questioni che sono state sollevate precedentemente sono questioni ovviamente di grande rilevanza. Ricordo brevemente che la questione di legare il mondo dell'università al mondo del lavoro era il punto focale che è stato trattato durante l'occupazione della Sapienza nel 1967, che è stata l'occupazione che è una di quelle che insieme a quella di Trento che è andato via poi al 68, erano state fatte all'epoca 12 tesi sull'università. Una di queste, quella centrale, era proprio sul fatto che non c'era distinzione fra la figura dello studente e la figura del lavoratore. Il lavoratore era sfruttato nella fabbrica e lo studente era sfruttato nell'università. Questo banalizzo, ma il concetto era questo. Questo rompeva un certo idea che l'attività di studio, di formazione, l'attività lavorativa fossero due ambiti completamente separati, fossero due tempi di vita anche cronologica completamente distanti l'uno dall'altro. Prima si studiava e solamente si studiava, poi una volta che uno aveva ottenuto il titolo di studio, un'adeguata preparazione, poi scavalcava il cancello o il burrone e andava a lavorare come due momenti distinti. Quindi ricordo questo perché sono 40 anni che la questione del rapporto fra lavoro e università è in ballo. Oggi sicuramente la questione, però non è che oggi possiamo trattare queste questioni negli stessi termini con cui veniva trattata 40 anni fa. Oggi si parla più di formazione invece che istruzione, e le parole hanno un senso. E si parla più di precarietà invece che attività lavorative, anche qui le parole hanno un senso per indicare che sono cambiate le forme dell'istruzione e sono cambiate le forme del lavoro. Ed è rispetto a questi cambiamenti credo che noi dovremmo fare delle riflessioni e ridefinire il nesso fra lavoro e università. Io vorrei limitarmi a sottolineare due punti di questo cambiamento. Il primo riguarda le modalità di produzione. Ora, prima è stato accennato che siamo in una fase in cui si è passati da un capitalismo industriale a un capitalismo cognitivo. Sono parole abbastanza, che possono essere anche un po' vuote di senso se non vengono riempite in maniera adeguata. Possiamo declinare questo cambiamento dicendo che se fino a metà degli anni 70 la ricchezza prodotta nei paesi occidentali, mi limito a parlare solo dei paesi occidentali perché sennò il discorso poi si amplierebbe a più alti livelli, no? La ricchezza prodotta nei paesi occidentali era essenzialmente una ricchezza che derivava dalla produzione di beni materiali fisici, fossero il ciclo dell'automobile, il ciclo dei beni durevoli, lavatrici, lavastoviglie, beni di consumo di massa, con strutture di produzione e tecnologie adeguate allo scopo, che erano le tecnologie della produzione di massa, della catena di montaggio, delle tecnologie meccaniche ripetitive, eccetera, eccetera, no? Oggi siamo in un contesto produttivo, questo significava, ma queste sono tutte cose note per cui non mi soffermo più di tanto, significava che in una realtà industrializzata, di stampo fordista come veniva chiamata, no? O fordista taylorista, diciamo che l'azione tayloriste che aveva bisogno di cicli continui di offerta di lavoro stabile nel tempo, anzi, quando le prime fabbriche a ciclo continuo sono state introdotte negli anni 20 con la Ford, con le prime produzioni meccaniche automobilistiche, la forza del lavoro dell'epoca scappava dalle fabbriche, non era abituata a stare 8 ore una catena di montaggio, al chiuso, nel rumore, nel fumo. Era abituata a lavorare, l'operaio di mestiere, l'artigiano che lavorava sulle macchine, sulle fresatrici, sulle livellatrici, nella produzione artigianale, era abituata a lavorare in piccoli opifici, in piccole fabbriche, l'ha riaperto con una flessibilità e spostamento, un nomadismo che era anche lui stesso che si sceglieva. Invece col passaggio alle tecnologie della grande impresa, dell'automazione, degli fortissimi incrementi di produzione di merci durevoli, l'organizzazione della produzione è stata una spogliazione completa delle conoscenze e della capacità di apprendimento e delle competenze dell'operaio artigianale, che queste conoscenze sono state espropriate dal lavoratore e inserite all'interno del processo meccanico. Il lavoratore era puramente un appendice della macchina e doveva girare i bulloni. Se avete in mente tempi moderni di Charlie Chaplin, vi fate un'idea, no? Tra parentesi, ci sarà a inizio di febbraio, c'è un cineforum, penso qui a Scienze Politiche, qui a Pavia, in cui ci saranno una serie di film sul lavoro, fra cui ci sarà anche Tempi Moderni, che verrà chiamato invece non Tempi Moderni ma Tempi Postmoderni, con riferimento ai cambiamenti della alienazione del lavoro dall'epoca a oggi. Chiusa parentesi. Ecco, oggi invece siamo la figura del lavoratore a tempo indeterminato, la figura salariato, manifatturiero, di fabbrica, eccetera. Nella realtà milanese, per esempio, fino al 71 era il 45-48% dell'intera forza lavoro, cioè un lavoratore su due lavorava con varie qualifiche mansioni nella fabbrica. E la Lombardia, insieme al Piemonte e alla Liguria, produceva i due terzi di tutto il valore aggiunto dell'Italia, per intenderci, perché no. Oggi siamo in un contesto ovviamente completamente diverso. Oggi il 75% dei lavoratori dell'area milanese lavorano nell'attività terziaria, soltanto il 18% lavora nelle industrie manifatturiere. Quindi nel giro di 30 anni c'è stato un cambiamento epocale. La produzione in termini di ricchezza, di valore aggiunto, è per 70% servizi, e sono servizi che sono sì legati alla produzione, ma non è produzione diretta di merci fisiche, no? Queste sono state esportate, delocalizzate in altre parti del mondo, come sappiamo. Quindi le caratteristiche del nostro sistema produttivo oggi sono delle caratteristiche che sono sempre più basate su produzioni tendenzialmente più immateriali, anche se non tutti i servizi sono materiali. Sono alcuni servizi legati alla logistica delle merci, che sono servizi legati alla materialità delle merci, magazzinaggio, trasporto, eccetera eccetera. Poi ci sono tutta una serie di servizi immateriali, che sono quelli a più alto valore aggiunto, che riguardano invece tutta la gestione del flusso di informazioni, il design, la progettazione, il marketing, il brand, la finanza, il flusso di denaro, l'innovazione, eccetera, che sono quelli che poi contano di più, su cui i paesi occidentali si stanno più specializzando, Ecco, quindi abbiamo questo, insomma, senza, per farla breve, abbiamo un cambiamento nelle forme e nei regimi di produzione molto forte, e ci sono due nuovi fattori produttivi che 30 anni fa non c'erano, quindi che occorre riflettere, su cui si riflette pochissimo. Uno è la conoscenza, che è un bene che ha delle specificità, essendo un bene immateriale, è un bene che più si diffonde, più si cumula. In economia si dice che un bene, non so quanto conosco l'economia, è un bene non rivale, cioè un bene su cui non è possibile esercitare dei diritti esclusivi di proprietà. Questo vuol dire, perché quando io compro un paio d'occhiali, compro i diritti di proprietà nell'uso di quegli occhiali. Una volta che li ho comprati, il prezzo e giustifica l'esercizio dei diritti di proprietà, quindi compro gli occhiali e li posso usare solo io, non li può più usare quelli che me l'ha venduto. Se lui vuole usare i miei occhiali, fa un furto, cioè lede la proprietà privata. Non è che quella che l'ha venduto perde la conoscenza, ovviamente, la mantiene, ma però l'acquista chi l'ha comprata. Quindi è un bene che quando passa da un venditore a un compratore, non è che passa l'esclusività d'uso di quel bene, ma anzi l'uso si raddoppia. Quindi capite che la conoscenza più circola, più si cumula nel tempo, e più si cumula, più cresce di utilità nelle possibilità di uso, è un valore di scambio e un valore d'uso contemporaneamente. Qui bisognerebbe fare una lunghissima riflessione, che adesso non abbiamo il tempo da fare, ma questo sarebbe uno dei temi teorici da approfondire, per come si modificano anche le forme di mercato, le relazioni, gli aspetti giuridici legati. La conoscenza viene tenuta artificialmente scarsa, lo dico brutalmente, perché ci sono i diritti di proprietà intellettuale, ma che non hanno nessuna ragione economica di esistenza, perché nel momento stesso in cui ho pagato i costi di produzione della conoscenza e poi la conoscenza inizia a diffondersi, il costo marginale di diffusione tende a zero, è il prezzo della conoscenza, quindi secondo le regole del libero mercato neoclassico paretiane dovrebbe essere pari a zero, la diffusione della conoscenza dovrebbe essere free. Da questo punto di vista. Invece, poiché vengono inseriti i diritti di proprietà intellettuale, la conoscenza, che impedisce la libera circolazione della conoscenza, è proprio il negare la libera circolazione della conoscenza, dà valore alla conoscenza, ma un valore che non è incorporato nella merce, che non è incorporato come nell'automobile, perché, o nell'uso che se ne fa usufruendo di diritti di proprietà privati sull'automobile o sulla merce X. Quindi questo, il fatto che la conoscenza diventi un fattore produttivo fondamentale modifica anche le relazioni di produzione, crea tutta una serie di problemi. Non è un bene privato, è un bene comune da questo punto di vista. E quindi questo apre una serie di prospettive, anche di alternative, e genera delle contraddizioni, delle conflittualità all'interno dei sistemi capitalistici di produzione ad alta intensità di conoscenza. C'è un secondo aspetto. Il secondo fattore produttivo oltre alla conoscenza, che quindi modifica sostanzialmente il modo di produzione e avrà degli effetti notevoli anche sulle forme del lavoro, poi adesso ci arriveremo, e voi già capite dove voglio andare, perché la conoscenza viene una delle istituzioni adibite alla produzione di conoscenza è l'università. L'università produce una merce che è centrale nel processo di produzione. È chiaro che quello che si decide o come si organizza l'università ha direttamente a che fare con il modo di produzione, non è una cosa separata, prima si studia e poi si va a lavorare. Già dicendo che la conoscenza è un fattore produttivo centrale oggi nei meccanismi di accumulazione, significa dire che il luogo centrale della produzione, uno dei luoghi centrali della produzione è l'università. E quindi voi siete già, voi, io, questo dall'altra parte, siamo dentro in un meccanismo produttivo. Non siamo separati, lo studente non è uno inattivo. Un tempo si diceva lo studente nelle forze lavoro, in economia si dice forze lavoro sono quelli che sono disponibili a lavorare dai 15 ai 65 anni. Non sono forze lavoro quelli che, vabbè, sotto i 15, d'accordo, sopra i 65, prima di 68, 70, 75, d'accordo, però e poi quelli che, pur essendo in età di lavoro, o studiano o le donne che stanno a casa o sono inabili al lavoro, eccetera. Oggi dai 15 ai 65 anni sono tutti attivi, non c'è più separazione fra chi è occupato direttamente e chi non è direttamente occupato e quindi magari compare come disoccupato, come inattivo, perché anche chi è disoccupato, chi è inattivo, sta lavorando, è all'interno di un processo produttivo. L'unica differenza, lì potremmo dire, che oggi è occupato chi fa un'attività lavorativa remunerato, mentre è disoccupato chi fa un'attività lavorativa non remunerata. La distinzione passa sull'ambito della remunerazione, non sull'ambito dello status professionale. Voi fate un'attività lavorativa non remunerata in questo momento, quando siete a lezione o quando studiate per un esame, perché voi siete parte integrante del processo produttivo, non sei una cosa separata, non c'è più questa scissione, non c'è più separazione fra tempo di studio e tempo di lavoro. Questo è un punto, credo, che valga la pena sottolineare, che non viene tanto sottolineato. Il secondo fattore produttivo, poi, ma questo, su questo ci interessa meno, però occorre ricordarlo perché sono due facce della stessa medaglia, è lo spazio, il territorio, lo spazio. Perché la conoscenza è un flusso che sviluppa capacità produttiva nel momento stesso in cui si diffonde. E si diffonde in qualcosa che non si diffonde nell'area, si diffonde su un ambito territoriale. E il modo e le sinergie, le economie esterne positive, le esternalità positive che il circuito della conoscenza crea negli ambiti territoriali, per quello parliamo oggi di ambito, grande ambito metropolitano milanese, o si parla di Silicon Valley o l'area di Lione oppure la Catalogna, piuttosto che altre aree invece che dove la circolazione della conoscenza è nulla e quindi sono depresse come molte aree del mondo, come certe aree del sud Italia o via dicendo, perché l'ambito territoriale, dato che non esiste più la fabbrica come luogo centrale territorialmente delimitato da un cancello con un luogo di produzione, ma è lo stesso territorio che diventa fattore di produzione, un luogo di produzione, proprio perché si creano i network di circolazione della conoscenza. che può essere poi bisogna indagare che tipo di conoscenza circola, quali meccanismi mette in moto. Quindi questi sono due. Allora, il primo punto che volevo sottolineare è: siamo in un contesto di passaggio, mi si sta sedimentando, perché ormai questi sono processi che si possono analizzare da una decina di anni a questa parte, in cui non si produce più con le macchine. Questo non significa che le macchine siano scomparse, ma significa dire che le macchine non sono più il fattore produttivo principale, capitale fisico, in un certo senso, no? E non si produce più con lavoro subordinato, operaio, salariato. Oggi, ovviamente non significa dire che il lavoro salariato è scomparso, d'altro. Diciamo che non è più la figura lavorativa dominante e rilevante, quello che potrebbe essere il motore del cambiamento, quando si diceva la classe operaia, la centralità della classe operaia, eccetera. Oggi definire cos'è la classe operaia è un bel problema, se andiamo a vedere anche da un punto di vista non solo statistico, ma anche delle soggettività e delle percezioni degli individui. E quindi ci sono tutte queste serie di problemi. Ovviamente questi cambiamenti, l'altro aspetto, ha avuto fortissimi impatti sugli aspetti quantitativi e qualitativi della prestazione lavorativa. Gli aspetti quantitativi li possiamo elencare, sono quelli che hanno portato alla frantumazione della fabbrica, la diffusione territoriale della produzione, la scomposizione della figura classica del lavoro subordinato, lo sviluppo di forme di lavoro autonomo più o meno eterodiretto, forme di lavoro atipico, non standard, flessibile, precario. Sapete che in Italia ci sono 45 forme di lavoro atipico, tutte legali, con le ultime successioni di leggi che sono iniziate nell'84, non è la legge 30. La legge 30, anzi, se posso dire onestamente il mio parere, la legge 30 non cambia niente rispetto a prima, perché tutto era già stato deciso prima, perché le nuove figure che ha introdotto, tipo lo staff leasing, job and call, eccetera, fino adesso non sono state utilizzate, né probabilmente verranno utilizzate, perché conviene prendere altre figure, no? Che sono più convenienti dal punto di vista del costo. Però il processo di precarizzazione e di flessibilizzazione del mercato del lavoro in Italia parte nell'84 il periodo clou di maggiore accelerazione tra il 92 e il 97, che poi questo coincida più o meno col governo di centrosinistra. Sono desolato di questo, ma questo è quello che è successo, non credo che si possa indicare. Nel 92-93 c'è stata la flessibilizzazione salariale con gli accordi sull'abolizione della scala mobile, flessibilizzazione salariale. Nel 94 il patto di Natale, nel 96 il pacchetto Treo, che sono state quelle che hanno poi... E questi sono gli aspetti quantitativi, su quelli su cui maggiormente ci si sofferma, che sono quelli che pongono una serie di problemi di precarizzazione, di instabilità, di incertezza, di individualizzazione del rapporto di lavoro, fa saltare il piano dell'intermediazione sindacale, perché a questo punto il singolo lavoratore tratta la sua condizione in maniera subordinata, non giuridicamente subordinata, ma subordinata di fatto, cioè in termini di ricattabilità, direttamente col suo committente, datore di lavoro, o attraverso forme di autocontrollo e attraverso forme di autorepressione. Quindi sparisce anche l'orario di lavoro, diventa una variabile abbastanza aleatoria. Non è un caso che dopo un centennale riduzione dell'orario di lavoro dal 1890, quando ci sono le prime statistiche, dal 1980, dove l'orario di lavoro è costantemente più o meno diminuito tranne i periodi bellici, ma sono periodi eccezionali, dall'80 in poi, negli ultimi 20 anni, l'orario di lavoro medio, di fatto, questo anche l'Istat lo riconosce, il fenomeno è veramente eclatante, no? È invece aumentato, dopo un trend secolare di riduzione. È un fatto che gli economisti non si sono neanche accorti, ma neanche molti altri si sono accorti che è successo un fatto che si direbbe di epocale, no? Se guardiamo su un orizzonte abbastanza lungo. E quindi c'è ricattabilità del lavoratore, allungamento dell'area di lavoro, individualizzazione, frammentazione e scomposizione, che sono tutte cose che fanno sì che il lavoratore sia cambiano i meccanismi di subordinazione. Se nella fabbrica la subordinazione era legata al disciplinamento dettato dalla catena di montaggio e dai tempi della macchina, oggi si è passati a forme di autodisciplinamento per cercare di ridurre il rischio di non avere il contratto di lavoro che continua, per cercare di ridurre la ricattabilità, essere disponibile. Se io sono disponibile, forse il prezzo della mia ricattabilità lo sento di meno, in un certo senso. Ma al di là di questi aspetti, che sono abbastanza noti, insomma, abbastanza noti, mica tanto, però insomma, diciamo che in alcuni ambienti sono abbastanza noti, se ne sono accorti anche un po' quelli del centro-sinistra, no? Quello che conta di più invece è l'aspetto, gli aspetti qualitativi, che hanno direttamente a che fare con le nuove modalità di produzione, hanno direttamente a che fare con l'università, Cioè gli aspetti qualitativi è che sono di fatto, adesso lo dico con uno slogan, il passaggio dalle tecnologie meccanico ripetitive alle tecnologie linguistico comunicative relazionali, cioè basate su quelle macchine lì, quelli sono dei supporti tecnici, ma non è il computer, non è la macchina, la tecnologia in sé. Quello che conta sono tutti i software, i programmi di comunicazione che questa macchina contiene, no? E che consentono di fatto di controllare in tempo reale, a distanza, la produzione, quindi di frammentarla, scomporla. Oggi non vale più il proverbio classico che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, perché non c'è più bisogno che il padrone abbia l'occhio direttamente sull'operaio. Ha delle forme molto più sofisticate di controllo attraverso diretto e indiretto che sono decisamente più funzionali. Questo passaggio dalle tecnologie meccaniche alle tecnologie linguistiche, chiamiamole linguistiche per dire informatiche, di comunicazione, anche di tipo relazionale personale, oltre che relazionale virtuale via comunicazione, no? Ha creato una nuova forma di divisione del lavoro, di divisione di tipo qualitativo, Cioè la vecchia divisione per mansioni, operaio, tecnico, dirigente e via dicendo, e che rimandava una struttura organizzativa piramidale che era riferita al fatto che c'è una fase della progettazione, per cui c'è i tecnici, gli ingegneri, i direttori di produzione che progettavano un prodotto, facevano il prototipo, all'epoca si chiamava prototipo, il prototipo era la dimostrazione che il prodotto era fattibile, no? In scala 1 a 20, dopodiché, fatta la fase della progettazione, successivamente si partiva alla fase dell'esecuzione, della produzione materiale. Una volta che la merce veniva prodotta, poi bisognava venderla e quindi c'è la fase della commercializzazione. Questa progettazione, esecuzione e commercializzazione rimandava una struttura di organizzazione del lavoro per mansioni, per cui c'era l'operaio, la tuta blu, che era l'operaio massa, il tecnico e l'ingegnere nella fase di progettazione, l'operaio, l'impiegato, i colletti bianchi nelle tutte le attività di vendita e di realizzazione della merce. C'è una netta distinzione tra lavoro fisico di produzione, lavoro manuale, e lavoro intellettuale di progettazione. E tutto il percorso scolastico negli anni 50 e 60 era strutturato su questa divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. Chi faceva il liceo andava all'università perché con solo maturità liceale non sapeva che cavolo farsene, no? E quindi era adibito a funzioni dirigenziali e intellettuali. Chi faceva la scuola dell'obbligo, ma questa è stata già una conquista con la media nel 60, 63 quando ha fatto la riforma, adesso la Moratti sta smantellando, no? Faceva solo la media, andava a fare l'operaio, chi faceva gli istituti andava a fare il colletto bianco, più o meno a seconda delle varie specializzazioni, eccetera, no? O il tecnico, in un certo senso. Quindi la struttura della formazione era funzionale alla struttura organizzativa della produzione nel modello fordista, taylorista della grande fabbrica. Adesso siamo di fronte a un superamento della divisione, di questo tipo di divisione del lavoro. Non c'è più una distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale in senso proprio. C'è una divisione che io definirei di tipo cognitivo del lavoro, non mansionale, no? Divisione cognitiva del lavoro riguarda le diverse modalità di accesso alla conoscenza del singolo lavoratore o lavoratrice in grado di che poi verrà utilizzata come forma di specializzazione e posizionamento nell'organigramma della produzione. Cioè, detto in termini più semplici, vuol dire se io c'è una divisione che corrisponde a livelli di ricattabilità e di precarietà diversa a seconda del tipo di conoscenza a cui io arrivo o che mi vengono date. E quindi tutto il processo di formazione e di istruzione è adibito a creare diversi livelli di accesso alla conoscenza. Questo noi abbiamo di solito, quando si parla di divisione cognitiva del lavoro, uno fa riferimento al cosiddetto digital divide, no? Cioè, che è una divisione spaziale, cioè coloro che possono accedere alle nuove tecnologie, o i paesi che possono accedere alle nuove tecnologie, e i paesi che invece non possono accedere, no? Chi può accedere può fare determinate produzioni, chi non può accedere non può fare determinate produzioni. Questo è ovviamente vero ed è una divisione internazionale del lavoro. Ma all'interno di chi dispone di nuove tecnologie c'è un'ulteriore divisione ancora più sofisticata del lavoro, basata sul tipo di conoscenza a cui uno accede e sul tipo di percorso istruttivo scolastico che viene fatto o che viene incanalato. Allora, la riforma del 3 più 2, per intenderci, no? Entra, è perfettamente in linea con questa logica. La laurea professionalizzante, che già il termine è veramente disgustoso, no? Ti dà quelle cognizioni abbastanza specializzate, perché è chiaro che il processo di specializzazione è importante, ma cognizioni che sono facilmente trasferibili attraverso mezzi meccanici, attraverso le standardizzazioni delle procedure di comunicazione, cioè attraverso le tecnologie informatiche. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che quando io arrivo a quella conoscenza, data dalla laurea professionalizzante nel campo scientifico, nel campo umanistico, nel campo economico, nel campo di organizzazione aziendale, qualunque campo, no? Io ho delle conoscenze che sono abbastanza specializzate, che però possono essere estrapolate da me e attraverso computer date, diffuse a qualcun altro individuo. Facciamo l'esempio di quelli che un tempo facevano il lavoro nell'editoria, uno dei tanti esempi, o il traduttore, in un certo senso. Oggi il traduttore era uno che aveva delle conoscenze specifiche, specializzate quindi, in una determinata lingua. Quando c'era bisogno di fare la traduzione da quella lingua si chiamava il traduttore, ed è chiaro che se io sono l'unico che sa quella lingua, per forza dovranno rivolgersi a me. Ho una conoscenza esclusiva, non diffondibile, non trasmettibile, no? E quindi questo mi dà, se ne sono cosciente, un potere contrattuale nel trattare la mia condizione lavorativa. Tempi, salari e via dicendo, no? Se invece io ho dei sistemi meccanici, informatici, delle tecnologie di comunicazione che mi permettono in maniera più o meno semi-automatizzata di automatizzare un'attività cognitiva cerebrale come quella della traduzione, come se fosse la catena di montaggio, no? È chiaro che io non c'è più la mia conoscenza specializzata, eccetera, perde di capacità contrattuale, di valore contrattuale nel momento stesso in cui non solo ci saranno altri 1000 che potranno tradurre con me, ma se io rompo troppi coglioni o chiedo troppo, eccetera, dico: senti, vai fuori da quel, vai a fare un giro, tanto tanto la tua conoscenza la posso trovare altrove, non ho bisogno di te. Questa è conoscenza standardizzata, conoscenza trasmettibile. Il 3, la laurea professionale, fornisce questo tipo di conoscenza. Poi possiamo fare tutti i distinguo, eccetera, fare un'analisi più profonda, ma in generale fornisce questo tipo di conoscenza che può essere in un certo senso sganciata dall'attore stesso della conoscenza. C'è una truffa quando si dice: dovete studiare, dovete specializzarvi, perché più siete specializzate, più studiate, più avrete opportunità di trovare lavoro, più sarete in grado di realizzare le vostre aspettative in termini di stato sociale, benessere, eccetera. Perché se tutti si specializzano e tutti tendono verso una determinata forma di conoscenza standardizzata, nessuno è specializzato e tutti sono sostituibili. E viene un processo di dumping sociale, di concorrenza, in un che è tanto più elevato, tanto più il processo di frammentazione del lavoro, di ricattabilità o di precarietà è elevato. Guardate cosa sta succedendo in alcune attività terziarie o professioni che un tempo erano considerate intellettuali, quelle che sono tutte legate alla comunicazione, ad esempio, che è il primo settore che è stato interessato sulle tecnologie di comunicazione. Ma questo vale per tutta una serie di funzioni aziendali che nulla che hanno con la comunicazione, no? Che sono ormai pervasive in tutti i settori, in un certo senso. È chiaro che rispetto alla conoscenza standardizzata, che è la qualità della prestazione lavorativa, poi c'è la conoscenza, quella che viene chiamata l'alter ego, la conoscenza tacita, cioè quella conoscenza che non può essere trasmessa via tecnologie di comunicazione, che può essere di diverso tipo. Se io sono l'unico che sa aggiustare un rubinetto, quindi non c'è bisogno, non pensate alle cose, ma basta, è chiaro che io ho una, o come prima ero l'unico che sapeva tradurre dal sanscrito o dal persiano o dal cinese, mettiamo che più, per cui adesso bisogna sapere il cinese a tutti i costi, è chiaro che io sono l'unico che sa tradurre il cinese commerciale, la mia prestazione sarà richiesta e sarà ben pagata, anche se sarò l'unico a riparare il rubinetto, l'idraulico come sapete è ben pagato, no? Ma nel momento stesso in cui ci saranno 1.000 persone che sanno il cinese o 1.000 idraulici, adesso non interessa l'esempio, è chiaro che vuol dire che la conoscenza di cui sono l'attore non è più tacita, quindi non è più caratterizzata da esclusività, ma si diffonde e diventa conoscenza standardizzata. E il processo di sviluppo delle tecnologie e delle conoscenze è tale che c'è come un ciclo di vita della conoscenza. La conoscenza nasce, una nuova conoscenza nasce sempre come conoscenza tacita, di pochi, esclusiva. Man mano che questa crea valore ed è importante, viene riconosciuta tale, perché ci sono tante altre conoscenze tacite che non vengono minimamente cagate e rimangono nei cassetti. Quelle che invece hanno valenza, vengono riconosciute tale, vengono sfruttate e via dicendo, poco a poco si diffondono e la conoscenza da conoscenza tacita si trasforma in conoscenza standardizzata, conoscenza diffusa, non è più utile. E allora chi vuole rimanere, avere potere contrattuale, vuole rimanere nella fascia alta del mercato del lavoro, vuole avere potere contrattuale, deve continuamente essere in grado di saltare su nuove conoscenze tacite, in un continua dinamicità, no, che ovviamente non è possibile. La truffa che dicevo prima sta nel fatto che viene detto che se voi vi specializzate e studiate, arriverete ad avere quella capacità, competenze, quella capacità di conoscenza che vi darà il potere contrattuale in quanto conoscenza tacita. Ma la conoscenza è tacita proprio perché è di pochi. C'è una palese contraddizione, perché se tutti si dotano di conoscenze tacite, le conoscenze non sono più tacite, ma sono ovviamente diffuse e standardizzate. No? Sto parlando all'interno di un settore, perché poi all'interno del percorso di specializzazione, perché nessuno potrà avere delle conoscenze tacite che spaziano da medicina a filosofia, a storia medievale o biologia. Una volta scelto il settore di sviluppo e di specializzazione, se rimane all'interno di quello specifico settore, questo fa sì che crea una divisione nel lavoro tra chi è l'attore di conoscenze tacite e chi non lo è. Chi non lo è ricattabile, chi è l'attore di conoscenze tacite ha potere contrattuale, ma chi è l'attore di conoscenze tacite è per forza una minoranza. Su 100, 3 avranno successo e 97 garantiranno, sono quei 97 che garantiscono il fatto che i tre abbiano successo. C'è una sorta di interdipendenza gerarchica, proprio una divisione cognitiva del lavoro. Allora, il processo della riforma universitaria, a partire dai primi passi da Zecchino, poi Berlinguer fino alla Moratti, si è mossa su due binari. Uno è quello di primo passaggio, era cercare di misurare la trasmissione di conoscenza, cioè dargli una quantitativizzazione, una commensurabilità, non so come si dice, no? Cioè, e questo è stato il meccanismo dei crediti. Si è tradotto poi operativamente nel meccanismo dei crediti. Tu studi quell'esame lì con che ti dà quelle conoscenze, beh, quello lì vale 4 crediti, quello vale 3 crediti, quello vale 5 crediti, e ogni facoltà decide lui i crediti, per cui c'è il caos più totale, al di là del discorso dell'autonomia, eccetera, eccetera, quello. No. Più poi il secondo meccanismo, il secondo passaggio è stato il 3+2. Distinguiamo tra fornire conoscenze standardizzate o garantire accesso alla possibilità di sviluppare conoscenze tacite. Il 2, oggi anche chi fa il +2 non arriva ad avere conoscenze tacite, però è la porta, è come il liceo all'epoca per entrare all'università. Oggi chi fa il 2 si dota del potenziale strumento di accedere a corsi di master, PhD, andare all'estero, entrare in percorsi formativi dove potrebbe sviluppare conoscenze tacite e quindi acquisire una capacità contrattuale, entrare nella fascia ristretta dell'elite del mercato del lavoro a cui tutti tendono, siamo tutti competitivi, dove l'ideologia della competitività fa tendere, diciamo così. E questo crea dei meccanismi di, ovviamente, di concorrenza. Questo è un meccanismo di controllo del sapere che è potentissimo. Perché l'altro punto, e qui poi mi chiudo, dico altre due cose più, no, no? È il fatto che nel momento stesso in cui la conoscenza e lo sviluppo di capacità, di competenze, di sapere diventa nevralgico per il sistema produttivo, per cui è il lavoro cerebrale cognitivo che è il lavoro che viene richiesto nell'attività terziaria, nell'attività di produzione di immagini, nell'attività dirigenziale, nell'innovazione, ma anche nella gestione meccanica di un magazzino, ormai tutto computerizzato, no? Allora, e dove non c'è le competenze cognitive, c'è l'atteggiamento relazionale, come per le cassiere dei supermercati, che devono essere sempre gentili, disponibili, bell'aspetto, avere savoir-faire. Se uno è timido, un po' brutto, è tagliato. Se uno è timido, brutto, e non entra a fare un master, è completamente tagliato fuori. Che non è neanche lo sviluppo di capacità relazionali. Gli vengono presi in considerazione. Poi lui può essere la persona più simpatica del mondo, ma questo non appare. In un mondo di apparenza, ovviamente, l'apparenza conta, no? Allora, dicevo, in un contesto del genere, in cui le attività cognitive sono centrali, c'è un problema nell'organizzazione del lavoro, che finché si tratta di controllare il braccio, lì c'è la macchina, la catena di montaggio controllava il braccio dell'operaio. Quando io devo produrre con la testa, devo trovare dei meccanismi di controllo del cervello. Ma il cervello non è facilmente controllabile come un braccio, attraverso un meccanismo disciplinare diretto. Devo trovare dei meccanismi di far sì che le persone siano in grado di pensare, ma non pensare quello che vogliono loro, ma pensare quello che voglio io. Devono essere in grado di pensare o utilizzare il cervello in maniera selezionata e eterodiretta, in un certo senso. C'è qualcuno che ti dice cosa devi pensare, ma non è che uno ti dice col bastone: pensa questo, se no ti meno. È lui che si deve convincere che sta pensando lui stesso quando pensa per qualcun altro. È molto più sofisticato il meccanismo. E meccanismi di questo tipo possono avvenire solo in due modi: o attraverso forme di ricattabilità esterna che sviluppano forme di autorepressione e autocontrollo, e questa è la precarietà del lavoro, oppure, però è una cosa che ha delle controindicazioni anche, perché se il lavoro è troppo precario, la capacità di sviluppare conoscenze e attività cerebrale perde produttività, perché non c'è partecipazione, e l'attività cerebrale richiede partecipazione. Quindi tu devi fare le condizioni che il lavoratore si senta valorizzato, contento, eccetera eccetera, perché mette in moto il suo meccanismo cerebrale. E se tu passi da un lavoro precario a un lavoro precario, a un certo punto dici: vabbè, sto qui a dannarmi per che cosa, se fra 3 mesi me ne devo andare. E quindi è chiaro che questo ha delle contingenze. Quindi il sistema migliore è quello di far sì che il lavoratore arrivi all'età lavorativa già ben strutturato, e quindi occorre che il meccanismo di ristrutturazione del processo formativo inizi sin dalle elementari, cosa che infatti avviene. Io ho una figlia che ha 9 anni, va alle elementari, un mese fa mi hanno detto: ma deve parlare col tutor, perché l'anno prossimo ci sarà il tutor, perché deve parlare se fa la sua figlia gli studi tecnici o gli studi umanistici. Dico: a 9 anni, questa è matta. No, invece c'è questa figura che dice che uno in elementare deve scegliere, perché se sceglie gli studi umanistici fa il liceo e va all'università, se sceglie gli studi tecnici fa la formazione permanente continua fino ai 18 anni e poi va, non accede neanche alla conoscenza standardizzata, o accede a una conoscenza standardizzata di livello, di secondo livello, diciamo, quindi è già c'è un indirizzo, un controllo alla base, cioè, e questo è la strutturazione, come viene gestita l'università oggi: 5 settimane di esami, 5 settimane di lezioni, 1 settimana in preparazione degli esami, 2 settimane di esami, poi 5 settimane o 6 settimane di lezione, in un continuo tutum tutum tutum tutum, no? È esattamente quello di strutturare la mente alla scelta, all'indirizzo, la dequalificazione dei programmi, il taglio di tutte le parti che non sono up to date, che non sono utili o supposte essere tali per il tipo di specializzazione del percorso formativo seguito, eccetera. Serve per eliminare qualsiasi processo di sviluppo di una conoscenza critica, che oggi con la scienza critica si potremmo tradurre cultura, cultura generale, non cultura, cultura generale. Se uno è già una cultura generale di base, diventa già automaticamente critico, eh? No? E invece sviluppare forme di formazione specializzata, come un processo di tendenziale lobotomizzazione dei cervelli, perché questa è la riforma universitaria, una lobotomizzazione dei cervelli, degli studenti e dei ricercatori e dei docenti. I docenti si fanno facilmente lobotomizzare perché è una corporazione che ha un potere, cioè sta già dall'altra parte. E gli studenti sono ignari di questo, più delle volte. Se voi vedete quello che, come è cambiato l'università negli ultimi 2 anni, 3 anni, che non sia mai stato un cambiamento così repentino negli ultimi 40 anni, e nessuno ha mosso un dito. Di fatto, perché ci si è accorto della legge, le fa ammorate, poi questa era già passata. Gli studenti dove cazzo erano prima? No? Non si sono accorti di cosa stava succedendo? No? Ma è perché è stato un processo molto più sofisticato. Quindi il controllo delle menti bisogna partire, deve partire sin da quando si è piccoli. Sviluppare forme di autocontrollo, sviluppare di immaginari, sviluppare forme di che siano in grado di fare controlli sociali più o meno diretti o indiretti. No? E questo ovviamente è funzionale. Il rapporto tra università e precarietà è strettissimo, perché tu inizi già nell'università a subire un certo fascino indiscreto di lobotomizzazione cerebrale, per poi entrare nel mercato del lavoro dove questo si trasforma in ricattabilità della precarietà, e tu eri buono prima e continui a stare buono dopo, e a eliminare o ridurre possibilità o potenziali conflittualità che possono essere generate. Se a questo aggiungete il problema della privatizzazione dell'università, la commistione sulla ricerca tra aziende private e pubblico, la brandizzazione, la marketizzazione, vedete il negozio qui fuori, dell'università, l'autonomia dell'università che diventa autonomia amministrativa più che autonomia didattica, che serve per tagliare i fondi e far sì che ogni università, ogni ateneo si debba autofinanziare. Dove vuoi che si vada a finanziare se lo Stato non gli dà i soldi? Attraverso appunto legami a doppio taglio con le imprese private, che finanzieranno solo alcune ricerche interessate a questo, con tutto il problema di ben noto e chiaro di, in cui appunto uno sviluppo culturale, perché il termine università viene da universitas, vuol dire che doveva dare le condizioni per una preparazione universale, cioè completa, di base, sulla quale puoi innestare percorsi più specializzati. Oggi siamo di fronte a una, non so, una singularitas invece che un'universitas, da certi punti di vista, dobbiamo fare una battuta, no? E tanto più, e oggi vale molto di più il discorso che non è poi un paradosso, che più aumenta la formazione professionale, più aumenta questo tipo di formazione universitaria, più i livelli, più l'ignoranza aumenta, l'ignoranza nel senso di non conoscenza, nel senso greco del termine, no? Di non conoscenza. E questo ovviamente è funzionale, non è dovuto, vogliono distruggere l'università, no, affatto. L'università ormai è, l'università ha un ruolo di subalternità alle esigenze di accumulazione, tanto quanto un lavoratore all'interno di un'azienda. Quindi è chiaro che c'è questo meccanismo molto, molto forte di dipendenza e di funzionalità. E deve essere una funzionalità duttile anche, tra parentesi, cioè flessibile, perché l'università dovrà essere in grado di modificarsi secondo le esigenze della competizione, della produzione, dei meccanismi di produzione di valore aggiunto, eccetera, eccetera. E quindi credo che un gruppo di studio sulla precarietà, non soltanto di fatto, di condizioni di precarietà, ma di studio della precarietà come forma di controllo che deriva direttamente dai processi formativi di istruzione tra università, sia fondamentale per capire, avere un quadro generale della cosa. Io mi sono già fin troppo dilungato, perché poi su questi temi capite che non se ne potrebbe dire tante, però credo, non so se ho detto le cose principali, quindi mi fermo. Però è meglio che venite a parlare nel microfono per la questione della... Io ti sento anche senza il microfono, ma quelli della radio non ti sentono. Allora, Io volevo chiederle, lei ha parlato di frammentazione sia nel mondo del lavoro che nel mondo dell'università e volevo sentire la sua opinione sul fatto che questa frammentazione, secondo me, ha causato poi appunto la mancanza di una classe unitaria, di un'identità, di una collettività che si riconosca all'interno di, appunto, di questa collettività e quindi ha fatto sì che diciamo, non ci si possa più, nel momento in cui si ha bisogno, non ci si può più unire per far fronte dei problemi, cioè la frammentazione ha provocato una mancanza poi di far fronte ai problemi, cioè non si può più far fronte ai problemi perché manca l'idea di classe, cioè la classe operaria non c'è più e quindi cioè in generale le classi appunto hanno provocato questa mancanza poi di reale attività, cioè di fare qualcosa di concreto per dei problemi. La seconda cosa, lei ha parlato di questa cultura, cioè del fatto che massificazione della conoscenza, cioè sembra quasi dal suo discorso che oggi cioè, troppi conoscano, cioè il fatto che tutti conoscano la lingua cinese, quindi non ci sia soltanto una sola persona che sa la lingua cinese, quindi può lavorare in quel campo, può tradurre in quel campo. Questa massificazione significa per lei che non c'è più. Cioè c'è troppa conoscenza, si è arrivati a la conoscenza è troppo accessibile, quindi non c'è lavoro per tutti, perché c'è troppa conoscenza. No, rispondo subito, poi magari se ci sono altre domande le mettiamo insieme, perché devo dire, la prima domanda non ho capito bene, non, cioè, non ho capito, cioè, non so se ho capito bene cosa volevi dire. È chiaro che, allora, se ti riferivi all'identità studentesca, non so se ti riferivi questo, possiamo dire che sicuramente uno dei problemi della strutturazione organizzativa dell'università è che hanno eliminato, hanno tolto il tempo, cioè non c'è tempo. Oggi uno studente entra alle 9, esce alle 16 o alle 18, nella peggiore delle ipotesi, va a casa, è mezzo rincoglionito, dopo 8 ore di lezione è più che ovvio, fa per 5 giorni alla settimana questo, quando una lezione deve studiare, quando trova il tempo. Questa è una cosa che accomuna la condizione studentesca e la condizione non studentesca, no? Per cui diminuiscono tutte le attività extra. Non c'è una separazione fra tempo di studio e tempo di non studio, come non c'è più separazione fra tempo di lavoro e tempo di non lavoro. È uno studio continuo ed è un lavoro continuo. Questo ovviamente ha delle ripercussioni notevoli. Avevamo fatto 3 anni fa una ricerca in bicocca, la facoltà di sociologia e un collettivo studentesco 3-4 anni fa aveva fatto una ricerca in bicocca su questi temi, dal quale risultava che di fatto qualsiasi impegno, anche di carattere associativo, relazionale, non dico politico, come potrebbe essere la riunione di stasera, no? Trova difficoltà di esplicitazione proprio perché non c'è il tempo materiale per farlo. E questo, quindi, prima cosa, una cosa dovrebbe dire, bisogna liberare il tempo dell'università, bisogna rompere la storia dei trimestri, perché è il passaggio dai semestri ai trimestri che ha ridotto il tempo. No? Bisogna, adesso non so qui di che facoltà siete, io parlo dall'esperienza di economia dove ci sono i trimestri, in altre facoltà non ci sono i trimestri, quindi non lo so, ma bisogna trovare, fare delle proposte all'interno delle varie facoltà che sono in grado di liberare tempo. Cioè, diluire le lezioni su un arco di tempo maggiore, ai fini di una maggior preparazione, comprensione e maggior produttività. Possiamo mettere anche da questo punto per indurre la pillola al corpo docente o a chi gestisce l'organizzazione. Poi hai parlato anche di identità di classe, quindi fuoriuscendo dall'identità studentesca. Beh, è chiaro, allora, è chiaro che se secondo me non bisogna fare dei semplicismi, nel senso che siccome oggi è difficile parlare di classe operaia vuol dire che non ci sono più le classi. Beh, diciamo, oggi non c'è più la classe operaia, così come soggettivamente e oggettivamente si era formato in 50 anni di sviluppo delle tecnologie tailoriste della grande fabbrica che va dagli anni 20 agli anni 70. È chiaro che oggi ci sono, bisogna fare studiare, inchiestare, capire quali sono le nuove forme di composizione del lavoro o composizione di classe. e vedere quali sono le nuove soggettività, le nuove tipologie anche giuridiche, perché poi ci sono c'è una frammentazione fra tipologie giuridiche, tipologie legate alle forme di divisione del lavoro e alle tipologie di soggettività e di percezione della prestazione lavorativa. Sono tutti questi aspetti. Oggi, secondo me, abbiamo sicuramente un embrione di nuove classi sociali che io andrei a analizzare come ricercatore militante che segue l'impostazione operaista degli anni 60, andrei a cercarla sulle nuove forme di divisione cognitiva del lavoro. Cioè, e andrei a chiedere, non tu che sei operaio, impiegato, tecnico, eccetera, ma direi tu che tipo di conoscenze, che tipo di specializzazione cognitiva hai. Poi che se tu sia dentro il quarto livello metalmeccanico, nel primo livello impiegato, non me ne frega più niente. Non me ne frega niente. Mi interessa sapere tu quale specializzazione cognitiva hai e in quale, nella filiera produttiva distribuita sul territorio, in quale posizione sei. E da lì cerco di fare la mappatura della produzione territoriale e individuare la composizione, la nuova composizione di classe. Magari vengo fuori che ci sono 27 classi e dico, beh, un bel casino questo. Perché se c'è una sola è più facile, ovviamente. Magari ci sono tre, magari. Però è chiaro che bisogna ripensare tutta la forma. E sicuramente uno dei meriti che c'ha la Mayday è quella di aver sviluppato dell'immaginario sulla condizione di precarietà che ha messo insieme posizioni professionali completamente diverse, che nella logica della struttura di classi 30 anni fa dovevano essere agli antipodi. Ancora oggi uno dice, se fa il precario nei giornali, lui magari ha una percezione di essere un gran figo perché dice, cazzo, faccio il giornalista. È un precario all'esse lunga, dice, cazzo, che sfigato, lì a tagliare la carne o a pulire il pesce. Però, e questo, se noi ragioniamo col vecchio schema mentale, lavoro intellettuale, lavoro manuale, certo, diceva, questi non potranno mai. E spesso c'è anche un immaginario che favorisce il mantenimento di queste cose, per cui ti fanno un mazzo così dicendo, tu fai vai a lavorare all'università, a me lo dicono, cosa fai? Docente, cazzo, che lavoro, che figo. Dico, sì, ma se lo vanno a chiedere a dei miei colleghi che sono 12 ore al giorno precari, guadagnano 800 euro al mese, e tu dici, ma lo tuo fare. Magari se faccio lavoro in un'altra cosa che non ha questo status symbol sociale, ne guadagno 1.500 di euro. Adesso lo sto banalizzando, ma ci sono tutti questi elementi che devono essere analizzati, eccetera. Qui bisogna fare delle inchieste cioè capire, informarsi. Non bisogna fare controinformazione, bisogna fare informazione, perché la controinformazione si fa solo quando c'è informazione. Qui siamo a un livello ancora minimo, cioè non c'è proprio informazione, per cui non puoi neanche fare controinformazione. Riguardo all'altra domanda, forse mi sono espresso male, io non sto dicendo che c'è una massificazione della conoscenza, io dico che c'è un percorso formativo che porta alla standardizzazione delle conoscenze, in maniera tale da far sì che la competenza, il sapere, non sia un'arma che il lavoratore singolo o in gruppo può adoperare per strappare condizioni di lavoro migliore, che era la condizione dell'operaio di mestiere. Nel 1900, nella costa est degli Stati Uniti, come in Inghilterra, nell'area di Manchester, o come nelle Fiandre o nel nord della Francia, l'operaio di mestiere, che è quello che nel 1830-40, il tessitore, quello che lavorava, i primi che facevano le cose coc dell'acciaio, il tornitore, il livellatore, non so come cazzo cosa facessero, no? Avevano una capacità contrattuale basato sul fatto che loro avevano le competenze e non il padrone, e quindi il padrone non poteva fare a meno di loro. E su questo, banalizzo, nascono le corporazioni dei mestieri, che poi diventano i primi sindacati, le prime trade unions, no? Su questo è la lotta, il conflitto endemico nel sistema capitalistico è proprio di far sì che a ogni sistema di produzione si sviluppano nuove forme di sapere, nuove competenze, e la competenza, il sapere, è uno dei luoghi conflittuali principali. Il passaggio dalla produzione artigianale alla produzione standardizzata, massificata, è stata proprio in parte anche dettata dalla necessità di espropriare queste competenze agli operai, incorporarle in un luogo considerato neutro, ma sotto il controllo padronale, che è la macchina. Questo poi ha creato una serie di vantaggi, però questa stessa condizione poi ha portato alla morte di questo sistema, alla crisi di questo sistema, e si sviluppa oggi un ritorno a forme in cui il sapere e le competenze sono ancora centrali nella produzione, però non sono più competenze e saperi manuali, artigianali, sono competenze cerebrali. Allora c'è tutto il problema del controllo cerebrale. Noi dobbiamo far sì di avere un sistema taylorista e disciplinare nei processi formativi e un sistema flessibile cognitivo nella produzione. E se voi notate, le cose stanno andando così, cioè l'università diventa sempre più disciplinata nella struttura, diventa sempre più una produzione massificata, una catena di montaggio, chiamata catena di montaggio immateriale di cervelli, ma voi siete dentro una catena di montaggio, avete dei percorsi segnati, non avete una delle conquiste del 68 è stata il piano libero, cioè io studio quel cazzo che mi pare, non sei tu che mi devi imporre. Adesso quanti esami avete per liberi di scelta? 4 su 57, no? Quindi siete già inseriti in un binario, siete già strutturati. E questa che porta alla massificazione non è corretto, conoscenza standardizzata, perché poi la conoscenza standardizzata è controllabile, e vuol dire che è controllabile anche chi la porta. Per liberi di scelta, 4 su 57, no? Quindi siete già inseriti in un binario, siete già strutturati. E questa che porta alla massificazione non è corretto, conoscenza standardizzata, perché poi la conoscenza standardizzata è controllabile, e vuol dire che è controllabile anche chi la porta.